Tempo di Sport con Carlo Genta. Sicuramente è una cosa molto emozionante, perché riconsegnare la Coppa che è stata nostra per 4 anni, ci sarà tanta nostalgia, soprattutto perché è una Coppa che ci ha dato tanto, è una Coppa che ci ha fatto vivere emozioni straordinarie, e quindi riconsegnarla sarà veramente difficile. Questo era Fabio Cannavaro, buon pomeriggio a tutti naturalmente, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauriciano in regia. L'ultimo bacio titola in rosso oggi il Corsera, sarà quello di Cannavaro sulla Coppa più bella che c'è. Poi comincerà, come dicevo prima, una storia d'amore nuova e diversa, inedita, mai vista prima. Non sappiamo al momento se con Pujol o con Van Bronckhorst, capitano dell'Olanda. Saluto e ringrazio Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera a Johannesburg. Ciao Fabio. Eccoci, buonasera. Ciao. 4 anni che sono passati in un lampo. Quando vedremo Cannavaro entrare allo stadio con quella coppa in mano, io credo che tutti noi avremo delle emozioni, quantomeno. Insomma, la notte di Berlino e tutta l'avventura della Germania non è che si dimentica in un giorno e nemmeno in 4 anni. Insomma, non è obbligatorio vincere la coppa ogni 4 anni, c'è riuscito a buttare soltanto il Brasile una volta, però si poteva fare una figura migliore, forse questo è il motivo anche dell'amarezza di queste ore. Non c'è dubbio. Fabio, tu che sensazione hai alla vigilia di questa finale? Sarà una partita molto simile a quella che è stata la semifinale tra la Germania e la Spagna. Quindi con la Spagna favorita? Leggermente favorita, però proprio siamo alle sfumature, ai dettagli. Certo. Oggi si legge Cruyff un po' ovunque, un po' su tutti i giornali si leggono queste interviste di Cruyff che metà olandese, metà spagnolo oramai, comunque vada, dice: per me sarà un trionfo. La ragione dice che ha ragione chi dice che questa Spagna è figlia della mentalità di Cruyff, è più olandese dell'Olanda come squadra. Io direi che è stato Mikkels, quando ha lasciato l'Ajax nel 71, che ha un po' trasformato il Barcellona e quindi il gioco spagnolo, e poi è andato avanti appunto con grandi allenatori olandesi, compreso Cruyff e poi Rijkaard. E questo è un po' un derby olandese più che Olanda-Spagna. D'altra parte, gli olandesi, essendo un popolo abbastanza piccolo, hanno sempre dovuto mettere a frutto la loro straordinaria intelligenza, lo straordinario talento, e hanno costruito dei capolavori nel tempo. Sì. L'altra sera c'era qui con me in studio Claudio Angiolini, nota voce della televisiva del basket, che mi ha messo una pulce nell'orecchio chiedendomi: ma siamo sicuri che gli olandesi del 74 tiferanno per questa Olanda, che è molto meno rivoluzionaria, molto più operaia, un'Olanda che potrebbe incassare un vecchio credito, ma secondo me non si può scrivere sopra, non si potrà comunque scrivere sopra quella leggenda, cioè la leggenda di quella squadra che è stata forse fantastica così anche perché perdente. Sì, non lo so, io per i ricordi che ho, io avevo 18 anni quando c'è stato il mondiale, mi ricordo che quell'Olanda veramente ci lasciò senza fiato, proprio per il modo di giocare. Tra l'altro allora si vedeva un centesimo del calcio che si vede oggi, sì, in televisione, e per come me la ricordo io fu veramente un evento dirompente, mentre la Germania si vedeva che era una squadra forte, ma una squadra normale nella sua straordinaria forza. L'Olanda era qualcosa che non avevamo mai visto, anche perché dell'Ajax di quegli anni lì avevamo visto sostanzialmente le 3 finali e poco altro, non c'era certo l'attenzione televisiva che c'è intorno alla Champions League di adesso. Ma sarà possibile scrivere sopra quella leggenda? Secondo me no, comunque vada, anche se dovesse vincere l'Olanda. No, perché insomma adesso ci siamo abituati un po' a tutto, e poi non si può fare ogni anno una rivoluzione, e questa è un'Olanda direi organizzata ma abbastanza normale. Abbastanza normale mi sembra la definizione giusta. Certamente non è un'Olanda rivoluzionaria, se non in un aspetto, no? La Spagna ha il blocco Barcellona, è una squadra con uno spogliatoio molto unito, giocatori che giocano insieme ormai da una vita, da quando erano bambini. L'Olanda invece è un accampamento di zingari del pallone, che tra l'altro si sopportano anche a fatica secondo le migliori tradizioni olandesi. Sì, però hanno trovato questo punto di incontro in questo Van Marwijk, che gli ha detto: voi avete sempre giocato molto bene, adesso proviamo a giocare un po' meno bene, proviamo anche a vincere. Credo che la voglia di vincere dopo l'ultima grande delusione che è stata quella dell'Europeo 2008, li abbia convinti a diventare una squadra. Sì. Fabio, ti chiedo ancora questo per chiudere, non ci siamo sentiti in questi giorni, ti è piaciuto questo mondiale? Abbastanza, devo dire che pensavo anche peggio, perché secondo me fin quando il calcio deciderà di collocare il mondiale alla fine di una stagione, tanto di meglio non si potrà vedere. Grazie Fabio, buon lavoro. A voi, grazie. Un abbraccio, grazie a Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera. Adesso dobbiamo fermarci per il traffico e poi magari facciamo anche un gioco. Vi faccio sentire, vi farò sentire un'intervista importante a uno dei grandi protagonisti, addirittura uno dei leader dell'Arancia Meccanica del 74 e poi anche del 78 come Rud Kroll, però poi voglio giocare un po' con voi. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. Volevo dirvi che la Juventus ha preso Arjen Robben, è l'esterno che serviva per far diventare la Juventus una grande squadra. Il Milan invece è un passo da Thomas Müller, che è stato incoronato addirittura da Johan Cruyff, che ha detto è nata una stella, è il giocatore che più l'ha impressionato in questo mondiale. Il Napoli ha acquistato Higuain dal Real Madrid, l'Inter invece rafforza la difesa con Friedrich, secondo me il miglior difensore centrale di questo torneo, l'altra sera è stato addirittura strepitoso nell'evitare il secondo gol spagnolo su 2-1 contro 1 a distanza ravvicinatissima, prima con Torres e poi con Pedro, se non ricordo male. La Roma ha bisogno di qualità sulle fasce, ha bisogno di rinfrescarsi sulle fasce e dunque prenderà Lam dal Bayern di Monaco. Il Palermo ha bisogno di un attaccante invece centrale e punta forte su Luis Suarez, stella dell'Uruguay. La Lazio ha bisogno di un centrale difensivo e acquisterà Piqué dalla Spagna. Altro spagnolo che sta per arrivare in Italia è Iniesta al Genoa. Sempre a Genova invece il giocatore più importante della difesa uruguayana, cioè Lugano. Per la Fiorentina invece c'è Forlan. Sarebbe bello se fosse tutto vero. La verità è che non succederà niente di tutto questo, però sarebbe bello. In questo giochino ho voluto assegnare alle principali, ad alcune squadre di Serie A, una stella emersa da questo mondiale, di quelle che hanno brillato sul serio e non di quelle spente e smorte, molto più famose, che conosciamo bene. Sarebbe bello se qualche stella arrivasse, la verità è che non arriverà nessuno nel nostro calcio, che da questo punto di vista è sempre più depresso. Vi piacciono queste scelte? O per la vostra squadra vorreste qualcuno di diverso? Potete anche dirmelo se volete. Intanto io vi faccio sentire una leggenda come Rud Kroll al microfono di Dario Ricci, che ripercorre la leggenda dell'Arancia Meccanica, la storia dell'Arancia Meccanica dell'Olanda del 74 e poi di quella del 78 arrivando fino ad ora. Kroll. Come nacque quella squadra straordinaria? I think it was born with two trainers. Penso che nacque con due allenatori, Appel e Michels, perché loro portarono in Olanda il vero professionismo. Tutto iniziò nel 1966 e dopo 3 anni di duro lavoro arrivò il successo, naturalmente anche perché nello stesso tempo e nello stesso posto nacque un gran numero di ottimi giocatori. Quale fu secondo lei il segreto di quella che fu una vera rivoluzione per il gioco del calcio? La prima ragione era la nostra disciplina. La seconda, la preparazione fisica. La terza, certamente la più importante, il talento dei giocatori e la volontà di raggiungere qualcosa tutti insieme. In quel gruppo c'erano appunto dei grandissimi campioni. Chi era il leader e quanto era importante l'allenatore? L'allenatore era molto importante per il gruppo perché Michels trattava tutti allo stesso modo. Ma chiaramente nel gruppo c'erano uno o due leader. Uno era Cruyff, l'altro Pete Kaiser, poi c'ero io. Duravamo in modo diverso, ma nella stessa direzione. Lavorando duro, utilizzando il talento, tentavamo di aiutarci l'un l'altro. E così facendo volevamo arrivare alla vittoria. C'è una partita indimenticabile, una sfida che non dimenticherà mai di quel periodo. Giocammo moltissime grandi partite insieme, in nazionale e nel club, ma quella che ricordo meglio la giocai con l'Ajax contro il Carl Zeiss Jena nei quarti della Coppa Campioni del 1970, quando perdemmo 3-1 fuori casa, vincendo poi 5-1 in casa. Ha qualche rimpianto rispetto a quel periodo. In fondo quell'Olanda arrivò a due finali dei mondiali senza riuscire a conquistare il titolo. No, chiunque abbia vinto il titolo, la gente non ricorda forse che comunque dopo il 1974 tutti parlavano del bellissimo calcio degli olandesi e di quella squadra. Sarebbe stato facile se avessimo vinto il titolo, ma la Germania aveva vinto, ma la squadra più ammirata era quella olandese. Del resto, se giochi due finali contro le formazioni padrone di casa, non è mai facile vincere. Questo è il nostro rammarico, naturalmente. Ho ottenuto due secondi posti ai mondiali, ma vorrei cambiarli anche con una sola coppa vinta. Vede dei possibili eredi di quell'Olanda nel calcio di oggi? No, non penso. Oggi è completamente diverso, non tanto il calcio, ma quel che c'è intorno al calcio. Mi sembra piuttosto difficile perché i giovani calciatori oggi lasciano sempre prima i loro club d'origine e i loro paesi. Noi eravamo nati e cresciuti insieme ad Amsterdam. Solo pochi giocatori venivano da altre parti. Anche nel club, oggi molti giocatori vengono dall'estero. E naturalmente, se vuoi formare questo tipo di giocatori, hai bisogno di molto tempo, perché vengono da altre culture, non conoscono il modo di giocare che si insegna all'Ajax. Questo richiede tempo. È molto difficile farlo oggi. Questo è il pensiero di Ruth Kroll. Vi devo dire che questi giorni è stato molto bello, almeno per me, è una sensazione del tutto personale. È stato molto bello rituffarci in questa leggenda della squadra del 74, soprattutto perché quella poi del 78 fu una prosecuzione, una replica se vogliamo, senza la partecipazione della stella assoluta, cioè Johan Cruyff, e ritrovare quelle facce, riparlare di quei giocatori, scoprire anche, come abbiamo fatto in questi giorni, cosa fanno, perché hanno continuato una bizzarra esistenza anche dopo, da Rensenbrink, che non vuol più sapere nulla di calcio, si è dedicato esclusivamente alla pesca, a Van Aneghem, che è diventato un fotografo, un pittore, un artista, a Van de Kerkhoff, che tiene reading di poesie. Insomma, è stato bello ritrovare quei giocatori di cui, non dico ci eravamo un po' dimenticati, però insomma la cronaca corre veloce, non è che ci si pensa tutti i giorni a queste cose. È stato bello rivedere le foto di quegli anni con l'eleganza assoluta che è rappresentata, secondo me, per i miei gusti estetici, l'eleganza assoluta su un campo da calcio da Johan Cruyff con la maglietta orange, che continuo a considerare una delle più belle del calcio mondiale, soprattutto in quella versione degli anni 70 con le striscette nere sulle maniche, con i pantaloncini bianchi bordati di arancione, calzettoni orange con bordo nero e fascia capitano con i colori della bandiera olandese, un pallone tra i piedi. Secondo me l'eleganza assoluta, arte contemporanea, in quel caso è stato molto bello, è stato molto appassionante riprendere in mano il libro di quella storia. Non so come la pensano gli ascoltatori, ma tra poco lo scopro. 800 24 00 24 è il numero verde, staremo in sua compagnia per la partita. Ci sarà il programma Domanda un ascoltatore, offrendomi lo spunto per dirvi che domani non vi farò compagnia durante la partita perché voglio vederla anch'io con calma, dunque la guarderò dalle 20:30, però prima senz'altro con un'ora in più speciale aggiunta per portarvi proprio al fischio d'inizio. Dunque staremo insieme dalle 17 fino alle 20 eccezionalmente domani, e dopo la partita ci sarà a questo microfono Gigi Garanzini per rispondere, per accogliere tutte le vostre emozioni. Marco da Modena, buonasera. Sì, buonasera dottore. Dica. Oltre a tutte quelle cose bellissime che hai detto sull'Olanda, si è ascoltato anche i basettoni alla Best, che sembrava una sfilata glamour giocando, sembrava proprio un movimento. L'Olanda? Ma erano scritto in questi giorni, sono state scritte un sacco di cose, tutte belle e corrette, no? I Beatles del pallone, i figli dei fiori, anche. I rivoluzionari, ma si vedeva anche, insomma, esteticamente, no? Giocavano, esatto, con le collane di perline, avevano i capelli lunghi fino al numero di maglia, e quelle facce un po' così. No, io le telefonavo intanto per la grandissima nostalgia e invidia che provo sia per gli spagnoli, perché l'ansia della vigilia del mondiale quest'anno. Ha ragione. Non ci tocca, ahimè non ci tocca. Sai che già ho pensato anch'io? Mi ricordo 4 anni fa la vigilia della partita, ero un po' tipo in trance. Non si iniziava niente perché guardavo l'orologio in continuazione. Sì, dove l'aveva vista 4 anni fa? Io detesto rimangare il passato e vivere con girato all'indietro, però insomma sono giorni giusti, no? Dove la vide 4 anni fa? Ah, l'avevo vista a casa della mia ragazza. Che c'è ancora? No, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più, ma fu una serata fantastica, nel senso che non si vedeva niente per strada che non fosse qualcosa attaccato a una radio o a qualcosa. Era una cosa, io l'avevo vista anche nell'82, avevo 10 anni. Sì. Ma io una cosa del genere non me la ricordo. Avevo sentito più quella del Brasile e più quella di Berlino che quella degli Stati Uniti. È stato un modo di vederla diversa. Sì, non c'è... No, io le chiedevo il suo parere riguardo al pronostico per domani. Io vedo leggermente più favorita l'Olanda per un motivo. Una pressione diversa, una pressione esterna diversa. Sì, però Spagna ha vinto l'Europeo 2 anni fa. È vero, Marco. Calci in una maniera completamente diversa. Perché è vero. Sono completamente. Allora, se ne parla poco, perché poi chiaramente siamo distanti. Ma secondo me, proprio perché la Spagna è molto gruppo, e l'Olanda sono un po' dei mercenari del pallone. Sì. Fanno un compito e dopo rimettono le loro maglie. Svolgono un lavoro nella maniera perfetta che in quel momento gli viene. Ma sono due modi molto differenti, sono due modi opposti di affrontare un mondiale, di giocare in nazionale, di costruire una nazionale, sono modi diversi dettati naturalmente da contingenze, no? Quanto alla pressione, vero, la Spagna però è partita con questa pressione addosso, perché se non dimentichiamo che si presentava a questo mondiale tra le favorite o forse addirittura come la principale candidata. La pressione è aumentata in modo enorme dopo la prima sconfitta contro la Svizzera e devo dire comunque che sono stati molto bravi a gestirla. Devo anche dire che sono comunque giocatori che vigilie di questo tipo le hanno vissute molte volte negli ultimi anni, voi con il Barcellona, un po' meno con il Real Madrid, però sono giocatori abituati a vincere, sono giocatori che sanno come si fa a gestire anche la pressione che precede una partita di questo tipo. Ovviamente non una finale di Coppa del Mondo, perché nessuno di loro ci è mai arrivato, ma finali di Champions League qualcuna l'hanno giocata e qualcuna l'hanno anche vinta, dunque non credo che la pressione possa essere un così grande problema per la Spagna domani sera. Nicola Latina, buonasera. Buonasera dottor Genta, grazie per avermi a lei, dica. Volevo tornare ancora sull'Olanda e volevo tessere le lodi ancora di Ruud Krol, che secondo me è stato uno dei più grandi stranieri che sia mai arrivato in Italia. Sì. Sotto il Napoli, io ex tifoso del Napoli, ricordo Ruud Krol che giocava in una squadra dove con tutto rispetto c'erano giocatori della levatura di Insani, Speggiorin, e Ruud Krol ha rischiato di vincere un campionato col Napoli a 2 giornate dalla fine. Sì, sì. Questo sicuramente... Un giocatore che arrivò, lo ricordo anch'io, lo vidi anche giocare con la maglia del Napoli in quegli anni dal vivo, era un giocatore straordinario dal punto di vista del talento, è chiaro che arrivò molto in là con gli anni, aveva perso gran parte del suo atletismo, però era un regista difensivo, cioè uno che dalla difesa col lancio lungo, con il tocco, sapeva far ripartire l'azione ed era diventato in brevissimo tempo anche il leader di quel Napoli, dunque questo sta a testimoniare la sua grandezza, giocatore immenso, lento certamente quando soprattutto sul finire della carriera quando arrivò a Napoli, però giocatore immenso, non c'è discussione anche dal punto di vista della personalità. Grazie Nicola, dobbiamo fermarci un attimo per una breve pausa, subito dopo però torneremo insieme. 800 24 00 24, e c'è chi scrive: Marina, all'Inter ci vorrebbe Luis Suarez, in una sorta di corsi e ricorsi della storia, una copiata Suarez-Moratti del terzo millennio a replicare gli anni 60. Qui siamo al colmo delle suggestioni. Io dico, all'Inter servirebbe uno come Friedrich, difensore centrale della Germania. alla Juventus farebbe faville Robben, il Milan ha bisogno di un'iniezione di freschezza, Thomas Müller, stella nascente di questo mondiale, Lam per la Roma, Suarez per il Palermo, Piqué per la Lazio, Iniesta per il Genoa, Lugano per la Samp e per la Fiorentina, Diego Forlan. Vi piace questo? Peccato non si realizzerà mai. Rimarrà soltanto un sogno, un gioco. Dico che intanto al Tour de France il francese Sylvain Chavanel ha vinto la 7ª tappa e si è vestito di giallo. Non è ancora arrivato Cancellara, che ha un distacco notevole, oltre 7 minuti dalla nuova maglia gialla. Dunque cambia tutto al Tour. Non è ancora però naturalmente una tappa di quelle che possono indirizzare la corsa gialla in maniera totale. E la partita di questa sera non ne parla nessuno, partite inutili, scrive un ascoltatore. Caro ascoltatore, la madre di tutte le partite inutili, la finale per il terzo posto secondo me è un obbrobrio in qualunque manifestazione, dunque eviterò anche di guardarla, la più triste delle partite del mondiale intero. Piuttosto vorrei tornare sul gioco di qui sopra, la Juventus che prende Robben, il Milan Thomas Müller, Higuain per il Napoli, Friedrich per l'Inter per ringiovanire un po' la coppia centrale, Lam per la Roma, Suarez per il Palermo, la Lazio su Piqué, Iniesta per il Genoa, Forlan per la Fiorentina, ovviamente fantasie estive. Carlo Laudisa, inviato della Gazzetta dello Sport ed esperto. Ciao Carlo. Ciao, sì, sarebbe fantasie. Sarebbe bello, però per la prima volta forse, per la prima volta le stelle di questo mondiale restano per noi in cielo, sono irraggiungibili per tutti i nostri club. Sì, sì, purtroppo allora c'è la coincidenza del mondiale, ma il dato congiunturale, anche di prospettiva, purtroppo aggiungo, è ormai chiaramente quello di un dimagrimento, per cui non possono esserci più spese esose, e soprattutto occorre puntare sui giovani. Ma su questo evidentemente c'è però l'ombrello del fair play finanziario che nel 2012 diventerà il punto fermo per tutti i club europei, quindi questo sicuramente indurrà anche le altre società a risparmiare e quindi a non spendere soldi a casaccio per i giocatori. Sì. Calmierà il mercato globale, non solo quello italiano, che insomma che vive sui dettagli ormai. Quali sono questi dettagli? I dettagli estivi secondo te quali saranno, Carlo, per quanto riguarda il nostro mercato? Ma sempre meno fantasia, anche perché la recente decisione del Consiglio federale di contingentare a un solo ingresso per squadra in A, contrariamente ai due previsti nella passata stagione, induce per esempio la Juve a fare una scelta drastica. Se un mese fa c'era il sogno di poter arrivare a Dzeko e a Krasic, adesso o l'uno o l'altro. Per le altre società di la verità non si è neanche posto questo problema, visto che prima di acquistare devono vendere. Sì. Quindi l'Inter aspetta di vedere se l'asta fra Manchester United e Manchester City per Balotelli porta a una offerta irrinunciabile davvero per Moratti, allora potrebbe essere acquistato anche un giocatore importante come Mascherano da Liverpool, ma altro al momento non si intravede. Il Milan a sua volta o vende Unterer o qualcuno dei suoi big lascia prematuramente la squadra, quindi sollevando via Turati dall'onere dell'ingaggio, mi riferisco in particolare a Ronaldinho, oppure al momento la traccia è assolutamente pari allo zero, perché l'altra settimana c'è stato un tentativo per portare via Honda al CSKA a Mosca, ma i russi hanno detto no e quindi gli entusiasmi sono stati subito smorzati. Sì, non ci sono soldi e questo mi sembra evidente per il Milan, non ci sono soldi da mettere su questo mercato. Leggevo prima sui siti, tra l'altro anche su quello della Gazzetta, che c'è un'offerta concreta del Real Madrid per Maicon. Ma l'ultimissima non so a quanto venga attribuita l'offerta. Certo Perez si era spinto a 22, un giorno aveva fatto capire che si sarebbe dovuto toccare anche quota 28, ma di fronte all'incrollabile meta dei 30 fissata da Moratti, allora poi c'è stata la fuga, quindi c'è un gioco delle parti tra Real Madrid e Inter su Maicon. L'impressione è che alla lunga Mourinho prediliga avere il difensore esterno più forte del mondo, quale il brasiliano, piuttosto che andare a prendere questo Luis dal Benfica come centrale, lasciando l'attuale terzino. Questo però è uno scenario di lunga prospettiva, proprio per quello che ho detto anche prima. Il timore è che si debba arrivare al 31 agosto per vedere poi svelate le vere trame del mercato. Carlo, ci vorrebbe un po' di fantasia magari, ad esempio il Palermo che ha venduto Kier in settimana di nuovo al Wolfsburg, deve esserci un canale privilegiato ovviamente tra Palermo e quella società tedesca. Ci vorrebbe un po' di fantasia, dicevo. Cavani, Pastore, lo stesso Kier, Abel Hernandez, che mi sembra la prossima grande cosa in maglia rosa-nero. Il Palermo in questo è molto bravo, le altre società meno. Beh, la Sampdoria per esempio aveva costruito bene in questi anni, però adesso ha raggiunto il traguardo della Champions League e Garrone certamente ha chiuso il mercato per causa lavoro in corso. Invece evidentemente il Palermo ha bisogno anche di cambiare le proprie pedine. Il Genoa ha lavorato comunque anche molto bene in questi anni, ha investito e ha venduto molto. L'ultimo per esempio è il caso di Ranocchia e dello stesso Bonucci che è arrivato poi alla Juve. Il Palermo però, sono d'accordo con te, ha in mano due pezzi pregiatissimi, perché Pastore come trequartista e Abel Hernandez come centravanti sono forse il meglio che c'è per quella fascia di età in Europa. Vedo pochissimi talenti con quella prospettiva di miglioramento ulteriore. Certo. Quindi sono d'accordo, Zamparini ha fatto una politica che lo ripagherà, credo. Poi ha tenuto anche Miccoli, quindi ha tenuto anche un gran bel allenatore, quello degli Rossi, quindi il Palermo si presenta in altre partenze con delle motivate ambizioni. Chiedo ancora questo, un'ultimissima cosa: fossi presidente di un club con tutti i soldi del mondo da spendere, uno per cui fareste una follia, una stella di questo mondiale per cui fareste una follia, io l'ho detto prima ed è quello che avrei assegnato al Milan, cioè Thomas Müller, hai qualche altra idea? Müller, certamente Van Gaal è stato bravissimo a valorizzarlo. Abbiamo appena parlato di Pastore perché al mondiale non si è visto. Ha fatto molto bene, devo dire, anche Honda, per cui il giapponese come scelta esotica lo scelgo vero. Soprattutto per testimoniare come sia stata secondo me una crescita complessiva del livello del calcio alle frontiere che ancora erano un po' scoperte, no? Quindi squadre come il Giappone ma anche la Corea del Sud hanno mostrato un gioco davvero interessante con talenti da seguire con grande attenzione. Grazie Carlo, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Carlo Laudisa, ciao. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, sono ascoltatori che scrivono, ad esempio: ho acceso la radio, ho sentito di Robben alla Juve, non mi faccio più di questi scherzi, fa caldissimo e ho creduto per 30 secondi di stare in un universo parallelo, purtroppo sono rimasto in questo e mi devo accontentare di Pepe. Saluti da quel che non è ancora evaporato, Marco da Genova. 800 24 00 24, numero verde. Se non giochiamo questo caldo a quest'ora, alla vigilia finale mondiale, che quando lo possiamo fare? Beh, a dire la verità abbiamo tutta un'estate a passare insieme con la Tempo di Sport, che resta per tutta l'estate, ogni giorno dalle 2 alle 3. C'è chi vuole sapere la griglia di partenza della Formula 1, l'ho detta prima del GR, la ripeto, tanto è la fotocopia di quella di 2 settimane fa, di quella precedente ancora. Barbosissimo il mondiale di Formula 1 quest'anno, Vettel davanti a tutti, Webber secondo, quindi terzo Fernando Alonso, quarto Hamilton, quinto Rosberg, sesto Kubica, settimo Massa, ottavo Barrichello e via via tutti gli altri per il Gran Premio di Silverstone che si corre domani alle 2, all'ora della Pennichella. Andrea Zorzi, dove sei? Te lo dicevo, a Casalecchio di Reno, ai mondiali antirazzisti. È vero che ne parlavamo ieri sera, per gli ascoltatori meno attenti o per quelli che dormivano. Casalecchio di Reno, mondiali, giochi non agonistici, cosa su cui... Rigorosamente non competitivi. Rigorosamente no, è vero? Sì, allora, va inquadrato in modo un po' diverso. Io e te l'abbiamo un po' forzata perché, sai, ci piace l'idea di pensare che lo sport, quando vai in campo, giochi per vincere. E sì, questo è confermato. in campo non ci si va per perdere. Però effettivamente quello che ho capito qua è che la preoccupazione che hanno quelli della WISP nel dire sai l'importante partecipare è che ormai siamo un po' malati noi di agonismo, di competitività, perché pensiamo subito a quegli squali di qualunque ambiente che farebbero qualunque cosa per arrivare a portare a casa il risultato. Quella però è la competitività malata. Sì. E se ne deve parlare, non possiamo negarla perché sono esempi negativi. Questo mi pare essere un po' l'equivoco che porta qualche associazione come la WISP a evidenziare il fatto che non sono competitivi. Poi in campo, lo vedi qua, nella pallavolo, nel rugby, nel cricket, quando sei in campo sudi e provi a vincere. Su questo non c'è alcun dubbio. Ma anche secondo, perché sarebbe una contraddizione in termini. È un ossimoro, è un ossimoro. Esatto. Proprio, è un ossimoro. Su questo non c'è storia, ma poi tra l'altro da tutti quanti viene confermata questa tesi qui. Però è sintomatico, Se si parla così tanto dell'importanza di giocare e che vincere non è tutto, vuol dire che lo pensiamo così tanto da doverlo giustificare tutte le volte. Sì, hai ragione. Clima qual è? Ma il clima è caldissimo, ovviamente. Poi diciamo che qui lo sport, permettimi il gioco di parole, è un po' sotto traccia. Nel senso che è vero che si gioca tanti sport, però come spesso accade in questa realtà ci sono un sacco di altri eventi di natura sociale legati al razzismo, alla lotta al razzismo, alla tessera del tifoso, a progetti sociali in cui lo sport è una delle componenti di queste raduno. Poi è anche molto bello perché c'è un campeggio gigantesco sotto a un bosco dove la gente è tranquilla, si diverte. Sì. Però insomma diciamo che alla fine l'evento nasce e si mantiene pensando a tanti altri aspetti e lo sport è una delle componenti, in questo caso particolarmente importante, però non è un raduno solo sportivo. Si parla di mondiale? Poco. Impegnati a giocare, Ma sì, ma poi c'è questa storia che siccome il mondiale diventa in questo caso l'occasione, l'ennesima occasione per evidenziare la distanza che c'è tra il calcio che ha un sacco di spazio e la nazionale ha fatto male, comunque è più facile sparare sulla Croce Rossa, diciamo che c'è un po' esageratamente questa sorta di distanza, di rifiuto che secondo me è lo specchio di come viviamo male questa realtà con il calcio e tra gli altri sport. Poi è vero che c'è una distanza inimmaginabile. Sì. Sui campi, sul gioco, sull'interesse, sui media in generale, cioè il calcio, tutto il resto è un'altra cosa. Però una cosa non può escludere l'altra, insomma. Esatto. Brutto demonizzare. La contrapposizione mi sembra veramente molto inutile. Dopodiché potremmo parlare in modo un po' più accorto di quale potrebbero essere eventuali collaborazioni. Questo potrebbe essere un altro piano, però adesso non è il momento, mi pare che ci sia più interesse a salvarsi dal caldo innanzitutto e poi portare a casa la pelle, certamente. Esattamente. E poi provare a vincere qualche partita, anche se sono rigorosamente non agonisti. Rigorosamente non competitivi. Non competitivi. Però si prova a vincere. Ci mancherebbe altro, se no si gioca nemmeno. Andrea, ci sentiamo domani. Stavi bene domani, ciao, buona giornata. Ciao, grazie Andrea Zorzi. Io chiudo andando in Spagna da Filippo Maria Ricci, dove mi risulta la Spagna sia più infuocata addirittura dell'Italia sotto questo sole che non dà tregua. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, sì, siamo quasi ai 40 gradi almeno qua a Madrid e domani pomeriggio si prevedono 250.000 persone alle 8:30, quindi si cominceranno ad agglomerare già verso le 7 quando qui la temperatura è ancora caldissima. Per godersi la prima finale mondiale, sì. Si fa questo e altro, pensavo dicessi 250.000 gradi previsti, ma questo No, 250.000 persone, a quell'ora di gradi potranno essercene 35, insomma. Che già non è male. La Spagna si sente, però. Ne parlavo prima con un ascoltatore che è un po' di nostalgia, un po' il magone in realtà, la Spagna che si sente come noi 4 anni fa. Sì, no, si sente ancora di più rispetto a noi 4 anni fa, perché noi comunque i nostri mondiali li avevamo vinti e insomma viviamo anche le cose in maniera un pochino diversa. Qui l'emozione è assoluta, insomma non, il mondiale non l'hanno mai vinto, non hanno mai passato i quarti di finale. Secondo me non ci sta tanto il paragone con l'Italia. Noi eravamo più abituati qua, l'euforia, a parte che in generale le cose, l'avete visto con la celebrazione del gol di Camacho, le cose si sentono nel calcio in maniera un pochino diversa rispetto a quello che è, no? L'altro giorno ci pensavo, quando mai un ex CT si permetterebbe di esultare così tanto per un gol fatto da una nazionale allenata da un altro CT, no? Ah certo, Certo. E quindi ecco, insomma, qua l'emozione è assoluta, diciamo. Io penso che questa sia veramente l'emozione assoluta. Senti, ma proprio i vecchi spagnoli, al di là di Camacho che abbiamo sentito strillare al microfono, ha sentito tutto il mondo perché è diventato una specie di gag. I vecchi spagnoli, da Zubizarreta a Butragueño a Santillana, i primi così a caso che mi vengono in mente, in questi giorni che cosa dicono? Si espongono, parlano, vengono cercati, sì, intervistati, eccetera? O... Beh, intanto Butragueño si è fatto tutto il mondiale, seduto accanto a Hierro, no? Sì. Hierro lavora per la nazionale, Butragueño lavora per il Real, però Butragueño è lì seduto lì accanto al suo vecchio amico e se lo gode da morire. Zubizarreta sì, sta parlando molto, lui anche ha comunque, prima aveva impegni televisivi, adesso è stato preso, no, come direttore generale del Barcellona al posto di Begiristain, però no, sono tutti molto ricercati, parlano tutti vanno in un'unica direzione, per questo dico, qui veramente siamo a livello emozionale all'apice, insomma, si è veramente, non avevo mai visto un paese così unito, insomma, e con tutte, quando dico questo so bene che questa è una frase, diciamo, no, particolare, con tutte le contraddizioni della Spagna e i suoi nazionalismi, perché insomma non è che li voglio dimenticare, però questa volta, cioè, il mondiale, come al solito il calcio ha, no, ha una sua magia, un suo, sì, potere, e quindi qua c'è sta Spagna e la Spagna va tifata, va vista, va sostenuta. Senti, e dell'infiltrato Johan Cruyff che cosa dicono? Perché oggi è su tutti i giornali, naturalmente, mille interviste, addirittura un pezzo su... Sì, perché stamattina ha fatto una conferenza stampa, noi l'avevamo intervistato ieri, però lui poi stamattina ha fatto una conferenza stampa, no? Sì. A Barcellona. Dice, non voglio far polemiche... È la sua finale, no? È la sua finale, ma anche perché ieri sera ne parlavo con Enzo Gleran, che è un tecnico italiano studioso dell'Olanda, di quell'Olanda, e diceva, ma questa Spagna è figlia di quell'Olanda perché è figlia di Cruyff. C'è la sua mano in questa Spagna e lui oggi l'ha rivendicato da tutte le parti, perché ha detto, questa Spagna è il Barcellona, gioca come il Barcellona, ha il blocco, il cuore, l'idea, la filosofia del mio Barça, e la filosofia del mio Barça gliel'ho portata io, questo in soldoni. Cruyff, questi grandi allenatori sono un po' così, insomma, si sa, no? anche Capello, Mourinho avrebbero detto le stesse cose, no? Non so come dire, ognuno poi porta acqua al suo mulino, e la grande personalità si vede anche da questo, no? dal modo di pensare, dal modo di vendere un po' le proprie idee. Ha una parte di ragione, assolutamente, voglio dire, il fatto che Cruyff sia arrivato a Barcellona come giocatore non ha fatto granché, però come allenatore ha creato il Dream Team, dove appunto giocava Guardiola e magari giocava Zubizarreta, e che poi, diciamo, si è tramandato negli anni, e con il ritorno di Guardiola al Barcellona in panchina, diciamo, ecco, ha trovato la sua apoteosi. Sì. Adesso questa Spagna è figlia di quello, però ha anche per me la grande solidità portata da Del Bosque, che in realtà è un mancego, non è olandese, non è catalano, ha altre idee, è un tipo solido, uno che ha digerito senza problemi, no, la cacciata dal tempio di Florentino Perez, sì, e adesso sì, si sì, prepara sì, alla somma rivincita, ed è un personaggio che, voglio dire, appunto, la Spagna non è che arriva in finale, no, segnando caterve di gol, con 3-1-0 consecutivi, certo. Quindi qual è il trionfo? Sì, c'è il modello Cruyff, d'accordo, lui si può prendere tutti i meriti che vuole, però la Spagna ha trovato una sua identità. Ma certo, ma l'avevamo detto da subito, no? Subito dopo la sostituzione di Aragonés, che il vecchio Vicente era l'uomo giusto. Filippo, ne parliamo domani, tanto avremo 3 ore di tempo, quindi tieni il telefono in carica. Grazie. Ciao, a domani. Posto. Grazie a Filippo Maria Ricci. Ho un minuto per Pier Augusto Stagi al Tour de France per capire com'è finita questa tappa. È finita che ha vinto Sylvain Chavanel, francese che fa felici i francesi, doppiamente, perché vince la prima tappa alpina, una tappa non impossibile, e veste anche la maglia gialla, quindi torna in maglia gialla dopo averla persa nella famosa tappa della Paris-Roubaix, la terza, dove sono praticamente caduti tutti, e anche Chavanel non è uscito indenne da quella giornata estremamente difficile per la gran parte del gruppo. Per il resto, punture di spillo che Alberto Contador e la Sastana hanno messo un po' tutte alla frusta per controllare lo stato di salute del plotone, li ha guardati in faccia, ha cercato di individuare i corridori che sono in condizione e quelli meno. Domani, nella vera prima tappa di questo tour in montagna a Morzine-Voiriaz, cercherà di mettere in crisi il più possibile Evans e Andy Slack, che al momento sono entrambi davanti a lo spagnolo, il grande favorito, sì, di questo Tour de France. Ivan Bass è stato lì con i migliori ed è risalito dalla 47esima alla 28esima posizione. Perfetto. Grazie per Augusto Stasio, che pure ritroveremo domani, mi raccomando, dalle 5, dalle 17 fino alle 20 domani a Tempo di Sport, per avvicinarci, camminare insieme verso la finale dei mondiali. Vi lascio con questa agenzia, questa è vera, non l'ho inventata io, come i colpi di mercato presunti che ho detto prima. Roberto Baggio conferma la sua disponibilità a tornare a lavorare in azzurro, in nazionale, attende l'incontro col presidente Abete per approfondire i temi oggetto dell'eventuale incarico che dovrebbe venire nei prossimi giorni. Lo ha detto Vittorio Petrone, procuratore di Baggio. Adesso ci fermiamo, vi lascio al GR, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, a Giorgio De Luca in redazione, ciao a tutti, a domani. A Tempo di Sport.